Io ho pubblicato questo articolo che è circolato abbastanza proprio sul memoriale della Shoah, sulla manifestazione che è stata fatta la sera del 12 ottobre, durante la quale la comunità ebraica e la città hanno ricordato i massacri di Hamas del 7 ottobre. In quell'occasione sono stati affissi sul memoriale una serie di manifesti, molti dei quali appunto ricordavano sia le persone civili morti nell'attacco che le persone che sono state prese in ostaggio. Io spesso passo dal centro alla Bolognina, passo davanti a questo memoriale più volte al giorno e mi ero fatto appunto la domanda di chi è questo memoriale. Allora sono andato un po' a studiare, sono andato a prendermi un po' di articoli e ho visto delle parole bellissime di Daniele De Paz, il presidente della comunità ebraica di Bologna, nel discorso inaugurale quando il memoriale è stato appunto inaugurato qualche anno fa. E De Paz diceva: coscienti del male e dell'ignoranza del passato, rispondiamo tutti insieme con la vita, il ricordo e il dialogo, affinché la brutalità non risorga in nessuna forma e contro nessuna cultura. La cosa che mi colpisce di questo memoriale, che sta proprio di fronte alla stazione e esplicitamente lega la Shoah alla strage di Bologna, due eventi che sono completamente diversi, se non per un particolare, il fatto che hanno coinvolto dei civili. Quindi alla fine di tutto questo ragionamento la mia idea è che strappare quei manifesti, strappare quei ricordi e quelle immagini di ostaggi sia un gesto sbagliato, perché quegli ostaggi sono persone come me, come te, gente che stava vivendo la sua vita, possiamo discutere all'infinito sul perché fossero lì eccetera, ma erano persone normali come noi e in questo momento sto in una situazione di estremo disagio, paura, terrore, e quindi trovo assolutamente sbagliato che siano stati staccati questi manifesti. Quindi a tuo avviso dovrebbero essere ripristinati? Certo, non solo ripristinati, ma stamattina proprio riflettendo su questo volevo lanciare un'idea che sta completamente nello spirito di queste parole che vi ho appena letto, affinché la brutalità non risorga in nessuna forma e contro nessuna cultura. La mia proposta è quella di fare una grande manifestazione cittadina il 7 di novembre, a un mese dall'attacco di Hamas, una grande manifestazione cittadina con il comune, con la chiesa, con la comunità ebraica, l'associazione palestinesi, l'AMPI, l'associazione per la pace, una grande manifestazione contro i danni che qualunque guerra fa sui civili e trovarci tutti al memoriale della Shoah, che è un memoriale di tutti i bolognesi, che è aperto al memoria, ricordo, affinché queste cose non accadano più contro nessuno, e attaccare insieme di nuovo i manifesti con gli ostaggi e anche per la prima volta i manifesti con i bambini e i civili palestinesi che sono morti sotto le bombe in questi giorni. Questo sarebbe il modo per dire che al di là della politica, al di là della guerra e dei dibattiti infiniti, polarizzanti, nei quali tutti ormai da un mese siamo incastrati e soverchiati, c'è comunque un filo di umanità, c'è un filo di pace che ci lega. E quindi io faccio questa proposta, la faccio a Daniele Ara, che è un mio vecchio amico, la faccio al sindaco Leppere, la faccio a De Paz, la faccio a Lampi e a tutti, di una grande manifestazione il 7 di novembre per la pace e contro le morti dei civili.